L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per una puntata nella quale daremo spazio alla ricerca e ai ricercatori in ambito diverso, ma pur sempre dedicato alla protezione del pianeta e alla sostenibilità, nonché alla nostra salute. Il primo spunto ci è arrivato dall'attribuzione del premio innovazione della rivista Focus, premio arrivato nel 2014 alla sua terza edizione. Del premio parlammo tra l'altro in questa trasmissione con il direttore di Focus, Francesca Folda, perché c'era appunto una sezione dedicata alle innovazioni per energia e ambiente. Ebbene, i lettori di Focus hanno votato e il vincitore per questa sezione è risultato l'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Potenza, che ha progettato FireSat, un software che permette di migliorare il monitoraggio degli incendi e che in Basilicata ha già contribuito a dimezzare le aree boschive distrutte dagli incendi estivi. Ci spiega meglio di che si tratta Rosa La Saponara, che è una ricercatrice appunto del IMA-CNR. Sono tecnologie satellitari, il fatto interessante è che sono tutti dati liberi in maniera completamente gratuita, quindi parliamo di tecnologie che diventano low cost ed applicabili per il monitoraggio dell'ambiente, in particolare della vegetazione. FireSat, come dice il nome, ha focalizzato il problema degli incendi, perché è un problema che a scala globale è veramente enorme e mano a mano, se osserviamo l'Europa ma anche l'Italia, è un qualche cosa che, se ricordiamo quello che succede ogni estate, è veramente devastante. Questo progetto è stato messo a punto per fornire uno strumento operativo di supporto alle decisioni, perché consente non solo di identificare le aree a maggior rischio e quindi di assegnare le giuste risorse in corrispondenza del grado di pericolosità. Noi infatti mandiamo queste mappe ogni giorno alla Protezione Civile della Basilicata e queste mappe vengono poi inviate ai comuni, che allertano i forestali, quindi le squadre in campo e anche il sistema di sorveglianza dall'alto. Quindi è un modo per ottimizzare l'uso delle risorse, perché nel momento in cui c'è un incendio il problema è il rapido attacco. Nel momento in cui l'incendio assume dimensioni che non sono enormi, ma che semplicemente non è più controllabile da terra, ossia nel momento in cui è richiesto l'intervento del Canadair, l'incendio è fuori controllo. Quindi tutto si gioca sui tempi e sulla capacità di arrivare nel momento giusto dove è più importante. Le faccio un esempio. Ci sono giorni che in Italia ci sono 300 chiamate in contemporanea, i Canadair sono 15. FireSat consente anche di avere in tempo reale la stima della evoluzione del fronte di fiamma, quindi diventa anche uno strumento per supportare l'attacco al fuoco. Questo nella fase, diciamo, di previsione. Poi c'è tutto il problema, perché purtroppo dopo un incendio c'è un impatto che è veramente devastante e che visivamente prende la vegetazione, ma purtroppo è molto di più, perché la vegetazione viene molto spesso completamente danneggiata o parzialmente, e questo sistema, che questo significa che tutto l'ecosistema è fortemente impattato, quindi non solo la flora ma anche la fauna e purtroppo anche il suolo. Ogni incendio ha caratteristiche specifiche, ogni incendio ha delle temperature che variano moltissimo a seconda della stagione, della vegetazione, della quantità di vegetazione, e quindi arriviamo a temperature che sono capaci di modificare in maniera permanente il suolo. Le faccio un esempio: se abbiamo argilla, come è successo per esempio in Basilicata, un incendio del 2012 di Pisticci, le temperature erano tali da modificarne proprio la composizione e le caratteristiche. Questo significa che il bosco diventa come se fosse piastrellato, perché il suolo non ha più la capacità di drenare. Questo significa che il rischio idrogeologico si accentua notevolmente. E questo ci dovrebbe far rivalutare, certo, a riconsiderare anche tutti gli eventi alluvionali che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Ovviamente c'è tutta zona una storia. Zona in zona, va tenuto conto se prima c'è stato o non c'è stato, ad esempio. Sì. Un incendio. Quindi, diciamo, la tecnologia potrebbe essere a disposizione, non so, delle protezioni civili regionali, certo, ecco, che sapendo utilizzare la tecnologia potrebbero quindi interpretare. Sì. diciamo, noi abbiamo messo su un sistema che poi è basato su questi dati, ritornando a FileSat così come adesso, che si scaricano in maniera completamente gratuita e preelaborata. Poi ovviamente è necessario fare l'elaborazione, fare tutta l'elaborazione, perché c'è un modello che non è semplicissimo alla base, che noi abbiamo ovviamente sistematizzato, messo in opera e sperimentato dal 2007. Questo è un altro elemento fondamentale. Volevo chiederle questo, della sperimentazione che avete fatto in Basilicata. Sì. Dal 2007. Dal 2007, sì. Noi stiamo stabilendo dei protocolli per una valutazione sistematica e scientifica di questo. Sicuramente le aree percorse dal fuoco sono diminuite, effettivamente in maniera consistente. Adesso stiamo sperimentando il tutto anche in altre zone, a partire dalla Cina e dall'Argentina. Partiranno anche delle sperimentazioni in Grecia e in Spagna, sono già attive dall'anno scorso. L'altro elemento importante è che da questo è possibile fare un monitoraggio anche dopo l'incendio, non solo per quanto attiene il rischio idrogeologico, ma anche per valutare quella che si chiama resilienza della vegetazione. Mi spiego. E in accordo con quanto prevedono le leggi italiane, non è possibile riforestare, quindi a meno che non ci sia ovviamente un rischio geologico che necessita di un rapido intervento. Quindi noi possiamo andare anche a valutare, non solo nel caso in cui non c'è riforestazione, la capacità di ripristino della vegetazione naturale, perché ovviamente ogni tipo di vegetazione, ogni incendio caratterizza anche questa capacità di ripresa, che appunto è la resilienza, e successivamente riusciamo a vedere a distanza di 1, 2, 3, 10, 20 anni, a seconda delle serie storiche. Ovviamente in questo caso le analisi noi le facciamo su incendi che si sono verificati almeno 10 o 15 anni fa, riusciamo anche a capire come effettivamente il sistema, e possiamo dire meglio l'ecosistema, ha reagito. Un altro elemento fondamentale che è emerso dai nostri studi è che ovviamente nel caso in cui c'è un incendio la resilienza è tale, la vegetazione riesce a recuperare. Se nella stessa area il numero degli incendi aumenta, questa capacità tende a diminuire in maniera notevole. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio e ancora ricercatori, ma questa volta biologi in questa puntata dell'altro pianeta. Biologi che si sono riuniti recentemente per la loro annuale conferenza nazionale, che l'Ordine Nazionale dei Biologi ha dedicato quest'anno a sicurezza e qualità degli alimenti. Si è parlato ad esempio dell'etichettatura degli alimenti, quella nutrizionale di prossimo sbarco in tutta l'Unione Europea e anticipata in Gran Bretagna con l'etichetta cosiddetta a semaforo, che è lo spauracchio del Made in Italy. Ne abbiamo parlato con il consigliere e segretario dell'Ordine dei Biologi, Luciano Oscar Azzori. Nel 2011 è uscito un regolamento della Comunità Europea, l'1169, che imporrà, sarà attuativo il 13 dicembre di quest'anno, una rivoluzione dell'etichettatura degli alimenti. Nel vero senso della parola. Ovviamente questo è un aspetto positivo, però stanno già nascendo dei problemi. Faccio un esempio, l'etichettatura a semaforo. Alcuni stati, questo è il caso più emblematico, il Regno Unito, ha anticipato alcune norme contenute in quel regolamento e ha inventato la cosiddetta etichettatura a semaforo, cioè una sorta di gioco cromatico con dei bollini, il bollino rosso, il bollino giallo e il bollino verde agli alimenti, alle confezioni degli alimenti, con un significato ben preciso. Rosso, prodotti sconsigliati. Giallo, possiamo definirli prodotti consumabili non frequentemente, quindi saltuariamente. Verde, alimenti sicuramente sani, quindi da consumare in maniera da preferire rispetto agli altri. E a questo punto uno dice, bello, bellissimo, anzi, sicuramente valido come sistema, può creare delle, diciamo, consuetudini virtuose, vero. Però invece il Made in Italy avrebbe da questo sistema, diciamo, un vero e proprio schiaffo. Nel senso che alcuni prodotti, e le cito due o tre, ma ce ne sono tantissimi, tipo l'olio extravergine d'oliva, il parmigiano reggiano, che sono prodotti di eccellenza riconosciuti in tutto il mondo perché fanno parte della dieta mediterranea, avrebbero il bollino rosso. Tradotto, si verrebbe a ridurre notevolmente il consumo extra, cioè fuori dalle frontiere italiane, con un netto calo del reddito dell'azienda, tradotto posti di lavoro e prodotto verrebbero declassati a livello internazionale. Questo sistema non è valido perché non esistono, possiamo dire, cibi cattivi e cibi buoni in quanto tali. Esiste semplicemente diete corrette, eque, e diete invece errate, squilibrate. E quindi ovviamente anche ciò che è più importante è la combinazione degli alimenti. Un cucchiaio, due cucchiai al giorno di olio extravergine d'oliva può fare solo bene. È ovvio che un litro mi ammazza, è sottinteso. Ma come biologi, come approcciate questo tema? Perché comunque voi avete un taglio diverso da quello che può essere magari quello di altri di professionisti. E questo è un aspetto che lei ha fatto bene a far notare, e giustamente, perché nell'immaginario nella società, della gente comune, pensa che il biologo sia il classico ricercatore universitario, in via di estinzione, perlomeno in Italia, che quei pochi vanno all'estero, oppure che si occupi di esami di sangue, urine nei laboratori. In realtà quello sono solamente il 10% degli iscritti all'ordine. Tutti gli altri fanno tutt'altro lavoro, però ancora la gente ci ha etichettati in questa maniera. E non è corretto che da oltre 20 anni siamo un leader nella nutrizione, nella sicurezza del lavoro, nella genetica forense, in tantissimi campi. Tra i temi discussi c'è stato anche quello degli strumenti che abbiamo per difenderci dalle frodi alimentari, strumenti che passano anche per la genetica, ci dice Azzori. Il discorso lo posso riassumere in questo concetto: si sta studiando, ed è già anzi in una fase quasi terminale, un nuovo sistema per definire la tracciabilità degli alimenti, quindi dire viene da lì piuttosto che da là. Una cosa è dire è prezzemolo genovese, una cosa è dire prezzemolo cinese. Unici, cosa cambia? No, può cambiare tantissimo, che qui abbiamo delle regole dal punto di vista della sicurezza alimentare, lì no, e poi cambia il prezzo. Quindi c'è anche frode commerciale, non solo dal punto di vista salutare. E la tracciabilità quindi importantissima. Altro aspetto è anche definire se ci sono state delle frodi. Io compro della carne e vorrei sapere se è stata trattata chimicamente con anabolizzanti o con quindi ormoni o antibiotici per aumentare la massa dell'animale, quindi rendere di più dal macello, oppure il pesce, il tonno rosso trattato col monossido di carbonio, o tutti, io sono ormai scioccato ogni volta che vado nelle pescherie, che vedo sempre i molluschi, polpi, seppie di un bianco cangiante innaturale, quindi tradotto vuol dire trattati tutti con perossido di idrogeno che rende la carne bianca, la cossigenata tanto per intenderci, perossido. Ecco, esiste un sistema che è molto più efficace e costa meno, che è l'analisi del DNA, cioè lo studio del DNA. Un sistema che è stato ideato da un biologo canadese, chiamato DNA barcoding. Praticamente si fa la codifica a barre del DNA e permette di poter dire è stato trattato, non è stato trattato, viene da qui piuttosto che da là. Costa pochissimo, si può fare su un numero esorbitante di prodotti, regno animale e regno vegetale, ed è anche più efficace. Le spiego perché. Se io voglio vedere, fare un'analisi chimica di un prodotto, posso ricercare l'elemento A, poniamo l'ormone X. Quell'ormone X però non mi esclude se c'è Y, Z o altri. Io so solo che non c'è o c'è X. E per determinare questo ho avuto anche dei costi. Quindi non è il metodo che noi adesso analitici di laboratorio facciamo. Costano tantissimo e non sono neanche, diciamo, molto efficaci. Con questa tecnica invece si farebbe un salto avanti. Ma questa tecnica non è autorizzata ancora? Non è ancora regolamentata, però la si sta studiando. Faccio un esempio. L'Università di Trieste, c'è un team all'Università di Milano come la Bicocca, che già è avanti in questo studio, che stanno creando le banche dati. Io devo poter dire che questo, gli dico sempre il prezzemolo, viene il basilico, viene da qui piuttosto che da lì, io devo avere la banca dati di tutto il prezzemolo, basilico di tutto mezzo mondo. Un lavoro enorme, ma una volta costruita la banca dati ed unificato il sistema, oserei dire 10 su 10, oppure ad esempio a Siena riescono tranquillamente a poterti dire che quel tartufo che hanno analizzato ad esempio è il tartufo bianco senese piuttosto che il tartufo piemontese di Alba. Io sfido un cane a poter dire questo. Senta, quindi lei dice questo non è regolamentato. Non no. È ancora regolamentato. Ma deve essere regolamentato dall'Italia o dall'Unione Europea? No, dall'Unione Europea. Ma sarà brevissimo, perché in realtà anche alcuni organi di controllo lo stanno utilizzando in parallelo. Però solo che poi non possono entrare in contenzioso, perché quel dato non è riconosciuto come strumento effettivo di verifica. Nella conferenza si è parlato anche moltissimo delle frodi, cosa succede, cosa non succede, quali sono delle etichettature bugiarde. Quali sono le a proposito di etichette, quali sono quelle bugiarde? Guardi, è stato fatto recentemente, se torniamo sempre in Inghilterra, uno studio, che poi è stato anche pubblicato nel loro quotidiano The Guardian, sulle etichette dei prodotti alimentari, e è saltato fuori che il 38%, cioè una su tre, dichiarano falsità. I prodotti analizzati tra bevande e alimenti sono stati 900, quindi tantissime, che ampliavano, cioè, che spaziavano fra tutti i tipi di alimenti, dall'ortofrutta, prodotti alimentari, eccetera, eccetera, carne, pesce, via dicendo. Io faccio un esempio, io ho letto tutto questo rapporto, anche se in lingua inglese, ci sono anche dei casi eclatanti. Ed esempio, hanno scoperto un tè dimagrante che conteneva un farmaco dimagrante, usabile solo su prescrizione medica, già una cosa da codice penale, e per di più era 10 volte la dose all'interno di questo farmaco, era 10 volte superiore alla dose cosiddetta considerata normale, e di tè non aveva neanche l'odore e tantomeno di erbe nei lenti. Questo è un esempio eclatante di come poi uno, inutile che vada a dire sappiate leggere le etichette, se poi ti fregano proprio su quella è finito. Qui è importantissimo il ruolo degli organi di controllo. E quindi io mi domando, che senso ha che entri questo regolamento, al di là dell'etichetta gialla, rossa e cosa, semaforo, che sarà severissimo, sarà più trasparente, il lettore avrà più modo di capire, il consumatore, di capire e interpretare ciò che sta comprando, se poi viene alterato, sofisticato, cambiato, quindi resa bugiarda, la lettura stessa che fa, cioè l'etichetta. E siccome in Italia ormai i tagli sono sempre numerosi nelle amministrazioni pubbliche, è inutile che ci sia un regolamento di questo tipo se poi, tra virgolette, furbetti mi fanno le cosiddette etichette bugiarde. Senta, le chiedo in ultimo a cosa dobbiamo come consumatori stare più attenti, visto che avete parlato di frodi quando andiamo a fare la spesa. Un consiglio, diciamo, per la spesa. Un rapporto prezzo-qualità. Io non posso comprare l'olio extravergine d'oliva a meno di 3 euro. È sicuramente contraffatto, perché un olio extravergine d'oliva vero costa dai 6 euro in su. I 6 euro sta andando in pari il produttore, non ci sta guadagnando, sta facendo beneficenza. Quindi c'è qualcosa che non va. Poi attraverso le attività degli organi di controllo è stata fuori che sono quasi tutti oli trattati chimicamente, cosiddetta con la tecnica della deodorazione, per togliere tutti i cattivi odori e renderlo anche piacevole al palato, faccio un esempio. Quindi generalmente il prodotto di qualità, uso dire generalmente, costa anche di più ed è sicuro. Poi con i tempi di crisi questo discorso non regge più di tanto, però è un dato di fatto. Non cercare l'offerta, insomma, l'affarone è difficile. Chiaro. Poi escludendo che ci possa essere delle etichette bugiarde, oppure togliendo questo problema, sapere interpretare le etichette. Faccio un esempio, dico questa chicca, io ogni volta che vado a fare la spesa per me è un piacere, cioè lo vedo come un momento, una carezza che mi faccio, perché studio il modo di fare della gente, e quindi non tanto per la mia spesa che devo fare, che è ridicola, ma quanto per cosa osservo, che è una lettura del mercato. Siamo nel reparto acque, uno dei reparti che più mi piace, acque minerali naturali. Le signore leggono tutte le etichette, bellissimo, l'etichetta viene letta e prendono una determinata acqua. Io mi avvicino facendo finta di essere completamente ignaro di tutti questi aspetti qui. Signora, come mai hai scelto quell'acqua? Può andare bene anche a me? Sì, la compri, è ottima. Perché? Perché ha pochissimo sodio. Ah, e il sodio fa male. Caspita, fa molto male al cuore. Guarda, nessuno gli ha detto che il sodio, senza il sodio non potremmo vivere, perché non sarebbe la contrazione muscolare, non passerebbero gli impulsi nervosi, saremmo neanche vegetali, peggio. Primo. Poi vai a vedere il carrello e c'ha le olive in salamoia. Tradotto, un'oliva in salamoia contiene più sale che 20 litri di acqua. Una sola oliva, uno ne mangia uno. C'ha il prosciutto crudo, ricchissimo di sale. Cioè, hanno creato quella che io chiamo la mala informazione. Perché siamo informati spesso dai mass media, inteso come pubblicità, non tanto come giornalisti. Pubblicità che sono ingannevoli, nel tempo ci creano dei falsi miti. Per chi volesse saperne di più su questo, ma anche su altri temi, l'Ordine Nazionale dei Biologi ha preparato anche un manuale che a questo punto dell'anno dovrebbe essere disponibile in libreria, un manuale dal titolo Guida pratica al consumo consapevole. Ci fermiamo qui per scriverci, vi ricordo, l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini l'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora.